sai che belle fai le belle sere, sai, ho visto gli occhi tuoi quando scende la bellezza in fondo al cuore. Come vorrei, come sei bella, fly away, tu scendi da una stella, fly away, così talmente bella, fly away, poi ho visto gli occhi suoi. Te ne vai, te ne vai.